Radio 24 Reportage. Bari, San Paolo, un quartiere agli arresti domiciliari, Diana Migliorati. Non c'era né acqua, né luce, né niente, proprio una strada deserta. Poi sono iniziata a fare i palazzini, tutti uno appresso all'altro. Si è modernato, però la gente che stava sta ancora. Gente che dà fastidio, che devi vedere devi stare zitta. Droga, tutte queste cose, omicidio ogni tanto sente ammazzata quello o quell'altro, insomma, ti fermo, delle macchine si danno una cosa dell'altra e uno se guardo, non può guardare assolutamente, vado per la mia strada. Se vedo una cosa faccio finta di niente, una cosa hai paura. Se lavora che manca, c'ho mio nipote, tiene 28 anni da quando si è diplomato, non c'ha un lavoro. Quartiere San Paolo, siamo a Bari, ma il mare qui non si vede. Neppure la città, per la verità. Questo è un CEP, quartiere di edilizia popolare, dei molti costruiti in Italia, soprattutto al sud sul finire degli anni 50. Corpi autonomi, lontani dai centri città, quasi isole a sé. 50 anni dopo, qui la disoccupazione è alta, come la criminalità. Qui ci dicono c'è il maggior tasso cittadino di arresti domiciliari. Bassa, invece, la scolarità. L'abbandono scolastico è una realtà che tocchi con mano guardando i gruppetti di ragazzi ai bordi delle strade, tutti attorno al motore, come qui chiamano i motorini. Per chi arriva, lo sguardo si perde tra file di palazzine, quelle basse di 2-3 piani degli anni 50 o le torri degli anni 70. Ma per il resto nulla, niente negozi, niente piazze. Le donne del quartiere le incontriamo nell'unico centro di aggregazione, quasi un rifugio. È una palazzina grigia dove trovano posto i vigili urbani, la sede della circoscrizione con gli uffici dell'anagrafe e il centro per le famiglie, gestito dall'Associazione Giovanni Paolo II. Tra un corso di computer, di cucina o di danza, proviamo a capire come si vive al San Paolo. Con Francesca Bottalico, che gestisce il centro, sostenuto per la prima volta anche dai privati di Fondazione Vodafone, cogliamo l'occasione di una lezione di pizzica. L'associarsi, l'integrarsi di persona, per dirti qua io sono 4 analfabete completamente, pure per fare la scheda di iscrizione, loro non sanno più, a persone che comunque hanno un livello leggermente più alto. Poi attraverso il corpo, che di fatto è uno degli elementi che viene vissuto specialmente sul quartiere come un elemento per apparire più che per essere. Tu pensa che anche il fatto di farlo la mattina è perché molto spesso i mariti non permettono, alcune vengono anche di nascosto. C'è anche una difficoltà di rapportarsi un po', perché il vicinato viene sempre visto come qualcuno intrusivo, anche perché il quartiere non gli permette, perché tu hai visto ci sono comunque strade a lungo scorrimento molto ampie, non c'è una dimensione che avvicina. Poi perché si ha effettivamente molto paura del vicino, anche perché comunque di fatto questo è un quartiere che ha un alto livello di microcriminalità, non ci sono assolutamente luoghi di aggregazione, per dirti anche la mancanza di una piazza non permette che ci siano, se non il mercato del venerdì, che poi diciamo in realtà è più un luogo simbolico, si esce per incontrare, però è l'unico luogo di aggregazione, non esiste il cinema. Quante storie di violenza avete raccolto in questo modo? Anche solo attraverso tante. Queste? Io ti posso dire che un 70% sulle persone che frequentano, cioè, fra violenza, fra situazioni di forte isolamento, forti situazioni conflittuali all'interno appunto della coppia, di violenza verso i bambini oppure di incapacità di gestire i rapporti, diciamo, madre-figlio, che poi chiaramente scaturiscono in o abuso di psicofarmaci o chiusura completa. Quante storie di amicizia e quindi di solidarietà sono nate anche solo in questo modo? Tanto, tante, tantissime, anche d'amore veramente. Attorno a noi una decina di donne del quartiere imparano a ballare, a poco si raccontano. Storie di violenza, storie di abbandoni. Ci facciamo accompagnare a casa di Anna. Vive con il compagno in un appartamento tornato in proprietà del comune dopo essere stato sequestrato ad un boss. Una palazzina di 6 piani, rosa e grigia. Quella spuntano dai muretti tondini arrugginiti. Fuori, al sole, una ragazzina con una bimba in braccio. Al San Paolo sono in molte ad averne ben prima della maggiore età. Anna ha con sé un bimbo di 2 mesi, altri 5 non sono più con lei. Questo è sesso, gli altri sono ostuni. Un istituto, San Rosa, Nicodemo, Domenica e Manuel, che hanno uno 14 anni, uno 8, uno 6 e l'altro 3. L'altro Michele sta in comunità di Carbonara 2. Come mai non sono con voi? Nel passato con mia madre, con mio padre, con il macello che è successo, i bambini sono stati maltrattati con le violenze, con l'acqua bollente addosso. E chi gli faceva tutto questo? Mia suocera, perché noi non avevamo questa casa ancora. I servizi sociali ci hanno aiutati a prendere i bambini e la madre e a portarli in questa casa. Allora, mia moglie è stata un anno con loro, con i bambini. Ma io non so come si può maltrattare dei figli, veramente. Michele è stato chiuso in affidamento per 12 anni. Tu sei nata qui a San Paolo? Come sei arrivata qua? Ha fatto l'abusiva mia madre qui. Mio padre ha rotto un appartamento e se n'è andato dentro. Io ero piccola, avevo 4 anni, 5 anni. E da lì non vi ha più spostato nessuno? No. Poi a 16 anni mi sono trovato un ragazzo, no, che ho fatto un figlio con uno e un figlio con un altro. Mi voleva andare perché era orribile. In quella casa era orribile. Mi ha scafeggiata appena nata. Oggi al San Paolo ufficialmente vivono 40.000 persone, ma si stima ce ne siano almeno 60.000. Chi in cantine riadattate a casa, chi con genitori e parenti stipati in 2 stanze. Molte storie difficili, ma non solo. C'è chi di rassegnarsi proprio non vuole sentirne parlare. Don Nicola, parroco di Frontiera, il quartiere l'ha visto nascere e non si stanca di ripeterci, le cose stanno cambiando. Questo quartiere è sorto mentre io ero parroco, parlo di circa 50 anni fa. Ho visto le persone destinate a questo quartiere, sono state trasferite, alcune dice deportate in qualche modo. No, non è stata una scelta, è stata una necessità, perché le persone che sono venute qui, parlo delle prime persone, vivevano in condizioni veramente difficili, in case malsane, di varie zone della città, solo che hanno pensato di risolvere i problemi facendo nascere case in questa zona, molto distanti dalla città. Poteva essere una buona soluzione se insieme alle case si fossero costruite le strutture, quelle fondamentali, addirittura a cominciare dalla scuola. È vero che è andato a lei in comune a chiederla questa scuola? E le persone non sapevano a chi rivolgersi. Mi recai dal sindaco. In un giorno ci sono state 900 iscrizioni. Le maestre, i maestri mandati qui sono state letteralmente bloccate la mattina alla sera. Poi si è cominciato a provvedere prima con requisendo alcuni appartamenti privati perché non c'erano delle strutture. Don Nicola, perché si definisce il San Paolo un quartiere di frontiera? Di frontiera, nel senso che la gente ha affrontato questi problemi e direi mostrando una capacità di iniziativa. In cosa è diverso il San Paolo da quartieri come Enziteto o Iapigia? Questione di tempi, bisogna accelerare un po' certe cose. Qui fuori dalla finestra vediamo la nuova linea metropolitana, è appena passato il treno. Quanto ha cambiato anche questo il quartiere in pochi mesi? Non è una questione di immagine, ma proprio questione di fiducia. Ecco, noi abbiamo sognato questa realtà 25 anni fa, quella della metropolitana leggera, la valorizzazione della lama balice qua vicino, un parco naturale da valorizzare. Erano le battaglie, l'apertura dell'ospedale che era costruito ma non funzionava per 20 anni. Questi cambiamenti che comunque adesso si stanno realizzando, in ritardo, ma certamente cambia il volto e direi anche come sentire della gente, è un sentire un po' più fiducioso. Già, la metropolitana leggera. L'hanno inaugurata il 22 dicembre scorso e molti già la vedono come un simbolo del riscatto. Una corsa ogni mezz'ora, per la verità, ma comunque dal San Paolo ora si arriva in centro a Bari in 5 minuti. Altro che il vecchio pullman, il tre barrato, come lo chiamano qui. 20 minuti nel traffico e una città che sembra davvero al di là del mondo. E allora tra poco il San Paolo proviamo a raccontarlo anche con gli occhi di chi lo abiterà domani, i più piccoli.